Radio 24 Reportage. Roma, Europa e la mobilità perduta, di Alessandra Schepisi. Questi sono gli italiani, tutti contromano. La disciplina non è il nostro forte. E questo è il guaio. È mai stata a Mosca? Non ancora. Beh, lì tutte le strade hanno una corsia sempre libera per i pompieri, i ministri e gli altri funzionari. Qui dove le fanno per i mezzi pubblici sono intasate dai mezzi privati. Qui, ma non lì. È del 1979 il famoso film di Luigi Comencini che racconta di un enorme ingorgo sulla tangenziale di Roma. Finzione cinematografica divenuta oggi realtà. La capitale, con i suoi quasi 2 milioni di veicoli, è una delle città più congestionate d'Europa. Trasporti pubblici poco efficienti, scarsa progettualità, basso indice di ciclabilità. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Ne parliamo perché si conclude oggi la settimana europea della mobilità sostenibile, la campagna per promuovere una mobilità amica dell'ambiente e della salute. In tutta Italia 52 le città che hanno aderito, il che ci pone tra i primi in Europa per numero di città partecipanti. Eppure restiamo il paese con maggior indice di motorizzazione privata, dove si contano 62 veicoli ogni 100 abitanti contro una media europea del 46, dove su 19 milioni di persone che si muovono per lavoro, 16 lo fanno in automobile e solo il 2% su due ruote contro il 5% della media europea. Ben lontani dunque dall'obiettivo stabilito dalla Carta di Bruxelles di portare al 15% l'uso della bici entro il 2020. E depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. E Roma, con il suo indice di ciclabilità dello 0,4%, rappresenta sicuramente la maglia nera d'Europa. Dura la vita del ciclista urbano romano, come ci raccontano queste testimonianze. Abito alla Dispoli, carico la bici in treno, scendo qui a San Pietro e vengo al lavoro. Ci sono gli ascensori o bisogna poi portarsela a spalla dalla stazione? Bisogna caricarla, sì. Bisogna caricarla sulle scale, ascensori non ci sono. Di solito fanno anche la doppia fila le macchine per entrare in centro. E si è costretti a volte anche a oltrepassare la linea di mezzeria, quindi è capace di stringere molto, avvicinare molto e fare molta attenzione. È pericolosissimo. Tombini aperti, piste inghiottite nel nulla, buche, sanpietrine divelti e automobilisti poco rispettosi. Perché la verità è una sola: nella città eterna chi va su due ruote è visto come intralcio al traffico e non come occasione per decongestionarlo. Eppure usare le due gambe converrebbe come, sia in termini di soldi che di tempo. Alberto Fiorillo, portavoce e responsabile dell'area urbana di Legambiente. Noi abbiamo organizzato una sorta di circuito di 7 km e 700 metri all'interno del centro di Roma e alla sfida hanno partecipato 3 auto e 3 biciclette, 3 auto che avevano l'onere di rispettare 3 virtuali limiti di velocità, uno quello che diciamo da codice della strada a 50 km orari nei centri urbani, un'altra al 40 km orari e l'ultima ai 30 km orari. Allora, mi soffermo poco sulla sfida auto-bici perché le bici hanno stracciato le automobili, cioè sono arrivate tutte e tre nettamente prima delle automobili, anzi siamo stati per così dire magnanimi con le automobili perché auto e bici sono partite tutte dallo stesso punto e abbiamo considerata conclusa la gara quando si passava sotto lo striscione dell'arrivo senza in realtà vincolare l'automobilista alla ricerca del parcheggio che avrebbe portato via altri minuti. La cosa interessante è che tra le 3 auto, sebbene potessero avere velocità differenti, abbiamo avuto solo pochi secondi di distanza l'una dall'altra. Questo vuol dire che la limitazione della velocità non comporta un aumento particolarmente significativo dei tempi di percorrenza. Ecco, chi ha fatto il nostro stesso studio in maniera scientifica dice che portare la velocità da 50 a 30 km orari aumenta mediamente i tempi di percorrenza del 3%, quindi si tratta veramente di pochi secondi o al massimo di qualche minuto, mentre c'è una stretta correlazione tra la velocità dei veicoli e il rischio in caso di incidente stradale, perché non va sottovalutato che nelle città ogni anno vengono uccise in urti, in impatti con veicoli a motore circa 1000 persone tra ciclisti e pedoni, e portare la velocità a 30 km orari avrebbe come dubbio beneficio quello di abbattere questa mortalità. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Ma a che punto stanno a Roma i piani per la mobilità e le piste ciclabili? Lo chiediamo al vicepresidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Marco Gimignani. Sappiamo che siamo estremamente indietro, sappiamo che il bike sharing di Roma è una vergogna, confrontandolo neanche con chissà quale metropoli, ma confrontandolo con Milano, insomma, ecco, non c'è bisogno di andare neanche all'estero. Lo stato delle piste ciclabili è che sono più deteriorate, semmai, cioè che la manutenzione è forse ulteriormente peggiorata, non gli interventi sulla viabilità che dovrebbero garantire la sicurezza dei ciclisti, se avvengono con contagocce. La ciclista Eva, quella uscita ai Fori Imperiali 2 anni fa da un taxi, ci sono assolutamente tutte le circostanze tecniche per cui potrebbe fare esattamente la stessa fine qualunque ciclista in questo momento. Il collegamento fra Roma e il mare rimane una cosa aleatoria e l'unica cosa che è stata fatta è stata l'approvazione del piano quadro della ciclabilità sotto l'ondata delle manifestazioni del 28 aprile di quest'anno, ma questo piano è un piano, cioè è qualcosa che bisogna vederlo effettivamente incardinato. E voi come FIAB lanciate una proposta molto particolare per incentivare l'uso della bicicletta, qual è? Una cosa che secondo noi è estremamente importante è quella di tutelare chi adopera la bicicletta per andare al lavoro. Siccome in questo momento a legislazione vigente, se uno si infortuna andando in bicicletta viene considerato come se ci andasse col parapendio o col deltaplano a motore e quindi non è tutelato, noi chiediamo, si vuole concretamente sostenere la ciclabilità, benissimo, nel disgraziato caso che uno che va al lavoro in bicicletta venga investito, comunque abbia un incidente, che venga tutelato come se fosse sull'autobus. A questa campagna hanno aderito il Comune di Milano, per esempio, parecchie regioni. Da parte del Parlamento ci sono consensi, però poi alla fine, quando è il momento, rimane una cosa così, non si riesce ancora a sbloccare. Almeno per una settimana anche a Roma si è tentato di avere una mobilità sostenibile. Biciclette per tutti, ecoveicoli, car sharing, zone pedonali, mezzi pubblici gratuiti. Queste alcune delle iniziative nell'ambito della settimana europea della mobilità che, come si diceva, si è svolta dal 16 al 22 settembre in tutta Europa. Muoversi nella direzione giusta, lo slogan della campagna di quest'anno. E allora cerchiamo di capire qual è questa direzione dal commissario europeo per l'ambiente Janez Potocnik. The right direction is certainly the direction which La direzione giusta è sicuramente quella in cui la mobilità viene sostenuta attraverso azioni di riduzione di consumi di carburante, di emissioni di gas serra, di congestione delle città, azioni che promuovano la qualità della vita e una migliore salute per i cittadini. Penso che sia qualcosa sulla quale tutti possono trovarsi d'accordo. Commissario Potocnik, per quanto riguarda in particolare la mobilità sostenibile, quali sono le città più virtuose in Europa? You know, in principle one would say that the best model are the cities that are performing well in terms of sustainable. In linea di principio si può dire che i modelli migliori siano le città più efficienti in termini di trasporti sostenibili, e cioè quelle città che affrontano il problema attraverso una strategia integrata, che punta da una parte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dall'altra a organizzare nel modo migliore possibile la mobilità. Modelli virtuosi sono per esempio Bologna, che ha vinto lo scorso anno il premio della Settimana Europea per la Mobilità per aver organizzato 2 giornate senza auto e incoraggiato altre forme di trasporto. Un altro buon esempio è Copenaghen, che il prossimo anno sarà la capitale verde d'Europa, quest'anno è Vitoria-Gasteiz. Entrambe hanno qualcosa da dire in proposito. Copenaghen, per esempio, vuole arrivare ad avere entro il 2015 il 50% delle persone che usano la bicicletta per andare al lavoro. Per ora la percentuale è del 35%.